para España, yo ve con te, yo ve con te. Tirate col fune di tempati ten, se lo se va, se lo se va, se va. Yamme, yamme, goppa yamme ya. Yamme, yamme, goppa yamme ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppa yamme ya, funiculi, funicula. Se ne s'aiuta, e se ne s'aiuta, la capa già, la capa già. E chiuta, poi tornata, poi venuta, sta sempre a ca, sta sempre a ca.